Stiamo concludendo il mese di maggio, che è un mese profondamente mariano, dedicato dalla Chiesa, soprattutto ecco, in molte nazioni, proprio non in tutte, alla devozione alla Madonna. Io penso che questa dedicazione del mese di maggio alla Madonna abbia anche a che vedere col fatto che spesso nel mese di maggio, il mese di maggio è un mese in cui viviamo il tempo della Pasqua, no? In cui quindi ricordiamo in modo particolare quei giorni in cui dopo la resurrezione di Gesù i discepoli sono stati particolarmente vicini alla Madonna e la madre di Gesù ha vissuto i primi giorni in cui ha messo in pratica ancora di più di prima, diciamo, quel comando di Gesù, quell'affidamento che Gesù ha fatto di ciascuno di noi a lei come figlio. Vi ricordate, sotto la croce stava lei con alcune altre donne, anche con il discepolo amato di Gesù, che noi identifichiamo facilmente con l'evangelista Giovanni, il discepolo più giovane, che però diventa come una figura nella quale, proprio perché non è nominato, tutti ci possiamo ritrovare, no? E quindi tutti noi discepoli del Signore, battezzati da Gesù, possiamo essere considerati il discepolo amato. E tutti noi siamo stati affidati da Gesù alla Madonna, come nostra madre. E il fatto che fosse da solo quel discepolo, Giovanni sotto la croce, allora ci aiuta a comprendere che ciascuno di noi viene affidato alla Madonna come il figlio unico, diciamo così, anche se poi sappiamo benissimo che cioè dal punto di vista dell'attenzione di Dio, dell'attenzione di Maria, noi possiamo essere considerati figli unici, non dobbiamo pensare che l'affetto degli altri fratelli possa diminuire, degli altri figli spirituali di Maria, diminuire da parte sua l'attenzione verso di noi, anche se poi sappiamo benissimo che siamo molti fratelli, siamo molti, ma siamo un solo corpo. E Gesù è il primogenito di molti fratelli, e Gesù ha, come dire, instaurato una nuova famiglia, che è la famiglia dei figli di Dio. E quindi è come se quella famiglia di Nazareth, di cui Maria è la madre, e Giuseppe, anche se probabilmente quando Gesù ha vissuto la vita pubblica, Giuseppe pare, non lo si trova nel Vangelo, quindi tutti deducono che fosse già defunto, e quella famiglia si allarga e diventa la Chiesa, diventa la famiglia dei figli di Dio, una famiglia nella quale, come dice San Giovanni, non siamo generati noi attraverso la carne e il sangue, come avviene per tutti nella generazione naturale, la nascita di ciascuno di noi, ma invece siamo generati nello Spirito Santo, è una generazione spirituale che ci rende figli di Dio, no? Dall'acqua e dallo Spirito. Nel battesimo diventiamo figli di Dio e entriamo a far parte di questa famiglia soprannaturale che è la Chiesa e diventiamo tutti figli di Maria. E allora la Madonna, quella giovane fanciulla di Nazareth, molto giovane, che è stata scelta da Dio, da tutta l'eternità, per essere la madre di suo figlio, che ha ricevuto quell'annuncio dell'angelo e quando Gesù risorge, riceve per prima l'incontro di Gesù, anche se non è raccontato nel Vangelo, ma la tradizione della Chiesa lo ha per certo, e poi dopo, quindi, lei vive quei giorni nella gioia della resurrezione. Noi infatti tutta la Chiesa in questo tempo pasquale dice al posto del ricordo della sua vocazione, l'angelo del Signore dedica l'annuncio a Maria, che in genere si recita alle 7 del mattino al tramonto e anche a mezzogiorno, con il Papa, lo recitiamo tutte le domeniche a mezzogiorno, e adesso si recita il Regina Caeli, che è una preghiera in cui noi diciamo: rallegrati, Regina del Cielo, perché tuo figlio è risorto. Ma in realtà noi ci uniamo alla sua gioia, e lei anche ci dice: figli miei, rallegratevi anche voi, siate contenti, siate felici, perché Cristo è veramente risorto. E lei in quei primi giorni, in quei 40 giorni, stiamo vivendo adesso i 40 giorni dopo la resurrezione di Gesù, e si arriva domenica prossima all'ascensione del Signore in cielo, e poi dopo, in realtà, lo si festeggiava una volta il giovedì, adesso lo festeggiamo la domenica per motivi di festa anche civile, però i 40 giorni scadrebbero giovedì, cioè domani, e poi ci sarebbero 10 giorni, che sono i 10 giorni tra i 40 e i 50, quando nella festa della Pentecoste è arrivato in modo imponente, in modo potente, in modo anche visibile, lo Spirito Santo, che non si vede ma ha riempito gli apostoli di forza dei suoi doni. E allora la Madonna è molto presente nei giorni, nei 40 giorni in cui Gesù c'è, però appare solo qualche volta, quindi attorno a lei si radunano gli apostoli, e lo notiamo perché San Luca negli Atti degli Apostoli dice che in quei 10 giorni dopo che Gesù è salito al cielo stavano tutti uniti nel cenacolo e pregavano con Maria, la madre di Gesù. Quindi capiamo che la Madonna ha un ruolo di unità, e anche lei, che ha molta fede, forse era rimasta l'unica a essere veramente a credere che Gesù sarebbe risorto in quei 3 giorni dopo la sua morte, pur con una grandissima sofferenza, e lei mantiene la fede, la certezza che arriverà lo Spirito Santo, no? E Gesù dice ai suoi apostoli: rimanete a Gerusalemme, aspettate di essere investiti di forza dall'alto, arriverà lo Spirito Santo. Quindi la Madonna aiuta questi suoi figli a credere, aiuta questi suoi figli a rimanere uniti, aiuta questi suoi figli a non essere scoraggiati. E poi probabilmente continuerà anche in tutti gli anni in cui vive sulla terra, prima di essere anche lei assunta in cielo, in corpo, con il suo corpo e la sua anima, e continuerà a essere la madre della Chiesa, no? E i discepoli gli chiederanno aiuto e consiglio. Ecco, allora forse per questo il mese di maggio, poi forse anche un mese appunto in cui perlomeno in alcune parti del mondo la stagione si risveglia e quindi ci dà il senso della risurrezione, anche la natura, e della nuova vita che ci porta allo Spirito Santo, ci affidiamo alla Madonna in questo mese di maggio, e noi vogliamo fare l'esperienza ancora una volta e di più di essere veramente suoi figli. Come lo facciamo? Lo possiamo fare in tanti modi. Lo possiamo fare affidandole un problema, e lo facciamo guardando una sua immagine e dicendoglielo esplicitamente, che le affidiamo, è un problema che ci preoccupa, le chiediamo la sua intercessione per un'intenzione che abbiamo a cuore, le chiediamo aiuto per la nostra vita cristiana, le chiediamo aiuto per il nostro apostolato, le chiediamo aiuto per il nostro lavoro, le chiediamo aiuto per i nostri familiari, le affidiamo tutta la Chiesa, no? Che è la nostra famiglia, a cominciare dal Papa e poi tutti i suoi collaboratori, tutti i vescovi, i sacerdoti, ma anche tutte le famiglie, tutti i laici che possono, grazie a lei, scoprire di essere veramente figli di Dio e di essere chiamati da Gesù ad essere apostoli, come gli apostoli. Sono chiamati a essere santi, tutti quanti, nel loro lavoro, nelle loro situazioni più diverse della vita. E in questo modo, se sono uniti a Gesù, e lei li può aiutare, ci può aiutare molto, allora possono veramente portare Gesù in tutti gli ambienti della vita umana, proprio tutti. tranne quelli che sono così legati al peccato che, in cui non possiamo stare. Però in tutti gli altri cerchiamo di portare la luce di Cristo e di riportare quegli ambienti a Gesù, alla vita cristiana, riportare la luce della fede in Dio. Tutti noi che siamo i figli di Maria e fratelli di Gesù Cristo. E in questo anche sappiamo insieme a lei chiedere che ci aiuti, come ha aiutato i primi, a ricevere lo Spirito Santo. Noi l'abbiamo ricevuto nella nostra vita cristiana, nei sacramenti della fede, lo vogliamo ricevere ancora di più nella prossima festa di Pentecoste, no? E in questo guardare la Madonna, volerle bene, affidarci a lei, trattarla come una madre a cui possiamo confidare tutto, proprio tutto, no? Qualunque cosa, sapendo che lei ci comprende pienamente, ci comprende totalmente, non si scandalizza di nulla, anzi è molto contenta che gli affidiamo qualunque cosa, qualunque turbamento, qualunque gioia la viviamo insieme con lei anche. Quindi questo può essere un esercizio esplicito, no? Ho una gioia, qualcosa di bello che magari mi viene da comunicare subito agli amici, magari con un WhatsApp, con un messaggino, nei modi in cui sappiamo comunicare subito tutte le gioie, no? Mandando foto, eccetera, e con un messaggio di Facebook, eccetera. Allora possiamo fermarci un attimo e dire, posso ancora più rapidamente, no? Senza nessun bisogno di tecnologie umane, condividere questo con la Madonna, no? E poi lo condividiamo come sapete fare voi, appunto, per esempio mettendo un fiore, come vedo davanti sotto quell'immagine della Madonna, o qui sull'altare, o dicendo un'Ave Maria. Un'Ave Maria. A volte appunto ci manca perché siamo un po' stanchi, la lucidità di parlare con parole nostre alla Madonna, ma possiamo farlo con una preghiera di quelle già solidificate dalla tradizione di tanti secoli, no? L'Ave Maria, anche solo un pezzo dell'Ave Maria, o la preghiera, quella che pare essere la più antica preghiera che si conosca, così strutturata, che sotto la tua protezione vediamo rifugiarci, Santa Madre di Dio, non voler disprezzare le suppliche che ti rivolgiamo, ma ascoltale, no? Vergine gloriosa e benedetta. Allora, con quella preghiera, con l'Ave Maria, con la Salve Regina, oppure evidentemente con il rosario che lei tante volte ha suggerito alle persone a cui è apparsa senz'altro negli ultimi secoli, noi anche adesso continuamente lo suggerisce, no? La preghiera del rosario, che evidentemente fa molto bene a noi e ci consolida nella fede, nella vicinanza con lei, e il Signore è molto contento, no? Di sapere che amiamo così sua madre. Allora, nel guardare la Madonna, noi possiamo in modo particolare, e oggi lo possiamo guardare, vedere la sua, cioè come la sua vita si è arricchita di tantissimi doni, grazie alla sua donazione, cioè grazie al fatto che lei ha fatto della sua vita un dono fatto a Dio che la chiamava, però poi anche a Gesù che è nato nel suo seno, a Giuseppe che era suo sposo, alle persone che erano accanto a lei, a Nazareth. Noi conosciamo solo quel piccolo squarcio delle nozze di Cana, no? La vediamo perfettamente inserita nella società del suo tempo, nelle amicizie del suo tempo, e anche molto attenta a loro e molto servizievole sempre, no? Per cui lei che dice all'angelo, ecco, sono la serva del Signore, no? avvenga per me secondo la tua parola, sappiamo che non, la Madonna non è solo serva del Signore, ma agisce con questo spirito di servizio, con questa donazione di sé, anche con, appunto, con quegli amici, anche con la sua parente Elisabetta, che corre a trovare anche per aiutarla, no? Anche per aiutarla in quei 3 mesi, intuendo che lei poteva avere bisogno di lei, no? Allora la Madonna, nel dire di sì al Signore, nel donarsi a Lui, ecco, possiamo dire che ottiene la pienezza della sua vita. E il Signore le dà sempre di più, eh? Per cui forse qualche d'uno pensa che lei avesse appunto già pensato di non, forse no, il proposito della verginità fosse anche previo, però in ogni caso il Signore l'ha riempita del dono del figlio Gesù e poi di tutti noi che siamo suoi figli, eh? Riflettendo su queste cose pensavo, mi veniva in mente con forza quello che un grande devoto della Madonna, un grande amico della Madonna, una grande anima, e ce ne sono tante nella Chiesa, tantissimi, tutti i santi sono molto devoti a Maria, però che è Giovanni Paolo II, perché che è stato da poco canonizzato. Lui aveva un magistero, un insegnamento molto bello, molto ricco, e anche un amore per Maria molto concreto. Per esempio lui teneva spesso in mano il rosario in mano, anche molto a lungo, per esempio nelle udienze, e lui diceva Ave Maria mentre ascoltava, poi non perdeva il filo del discorso di chi gli parlava, però aveva il rosario in mano, ce l'aveva proprio sì, come se si aggrappasse, no, all'amore per Maria. E tant'è vero che in un recente libro di testimonianze su Giovanni Paolo II, se non erro proprio Monsignore Cevaria, il prelato del Busdei, racconta che Don Alvaro del Portiglio, che andò a trovare Monsignor Descourt, che aveva appena avuto un ictus 3 giorni prima del conclave, il suo grande amico polacco da cui andava sempre a casa sua a Roma, aveva avuto un ictus e poi offrì queste sofferenze per il Papa, per il conclave, poi per tutto il pontificato di Giovanni Paolo II, e lo andò a trovare al Gemelli, e lì andava anche il Papa, e si trovarono e si salutarono, si abbracciarono, e nel baciargli la mano, Don Alvaro del Portiglio bacia la mano a Giovanni Paolo II e nota che la mano è al rosario, eh? Quindi anche in quel momento stava andando in giro, aveva il rosario in mano. Giovanni Paolo II, che andava spesso nei santuari mariani a pregare, ad affidare le sue intenzioni, ecco, Giovanni Paolo II aveva nel suo magistero ricchissimo, aveva alcune cose che gli piaceva ripetere spesso. Per esempio lui era molto, citava molto un documento del Vaticano II a cui anche ha lavorato, e lui partecipava ai lavori, che è la Gaudium et Spes, no? Che è un documento molto bello, no? La Chiesa e il mondo contemporaneo. E voi eravate, insomma, sono documenti antichi, ma per esempio io appena leggo l'inizio della Gaudium et Spes, che dice le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono anche le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Per esempio questa prima frase della Gaudium et Spes Giovanni Paolo II la cita quando nel suo libro, che è stato una svolta epocale, nessun papa aveva mai scritto un libro da papa, e invece lui scrisse un libro, un'intervista che si intitolava Varcare le soglie della speranza, e quando L'intervistatore gli chiede: ma com'è la sua preghiera? E lui cita questa frase, come dire: nella mia preghiera ci sono tutte le gioie e le tristezze, le speranze, le angosce di un uomo contemporaneo, nella mia preghiera di Papa. E poi c'è un altro punto che gli piaceva dire molto spesso della Gaudium Spes, che nel punto 22 della Gaudium Spes, quando si dice che Gesù Cristo, il Verbo incarnato, svela nel suo incarnarsi l'uomo a se stesso, cioè svela l'uomo chi è lui davvero. È molto bello questo, cioè non solo Gesù ci svela Dio, ci rivela il Padre, ma anche dice all'uomo: guardami, ecco, tu sei questo, no? Che vedi, la vera immagine dell'uomo. E poi il punto che volevo citarvi è quello del numero 24, quando, questo Giovanni Paolo II la citava molto spesso questa frase, e che l'uomo è in terra la sola creatura che Dio ha voluto per se stessa e non può ritrovarsi pienamente se non attraverso un dono sincero di sé. Queste sono, è una verità, potremmo dire, sull'uomo, antropologica, che il cristianesimo svela, molto bella e molto importante, cioè l'uomo è l'unica creatura che Dio ha voluto per se stessa, le altre creature le ha volute, vuole bene a tutte le altre creature, le ha volute davvero, no? Però come in servizio all'uomo. E l'uomo l'ha voluto per se stesso e l'uomo non si può ritrovare se non attraverso un dono sincero di sé. A volte lui spiegava questa frase dicendo: se l'uomo è stato voluto da Dio come solo per se stesso, non in vista di un'altra persona, di un'altra realtà, di un altro, allora vuol dire che è costituito come dono per se stesso e a se stesso, no? E allora un dono si realizza solo quando si dona. Può essere molto bello che ciascuno di noi nel lavorio che spesso facciamo di cercare di capire chi sono io, il mistero dell'uomo, il mistero di noi stessi, no? Che a volte è complicato, a volte a volte si complica di più con le vicende della vita. Noi possiamo dire: Dio mi svela in Gesù Cristo che io sono stato voluto da Lui come un dono, e quindi in che modo mi posso realizzare pienamente? Donandomi. L'uomo non può ritrovarsi pienamente se non attraverso il dono sincero di sé. E questo noi lo sperimentiamo se facciamo un po' di ricordo della nostra storia, se facciamo un po' di memoria della nostra esistenza, possiamo notarlo, no? Quando è quello che banalmente noi a volte diciamo quando facciamo un gesto d'amore, quando facciamo un gesto di donazione, quando rinunciamo a noi stessi e pensiamo agli altri, poi siamo più contenti. Quando invece ci chiudiamo su noi stessi, pensiamo a noi stessi e cerchiamo magari solo il nostro bene, alla fine non siamo così contenti, anzi, magari a volte siamo proprio tristi. E Gesù in fondo, ecco, se la Madonna ci dice questo, ci dice: figlio mio, guarda che io sono tua madre, io sono diventata super felice, pur senza che mi sia stato risparmiato il dolore, lungo tutta la vita, e l'angoscia addirittura, Il Vangelo parla di angoscia di Maria, l'angoscia quando Gesù si perde, per esempio, no? A Gerusalemme il dolore sotto la croce e la spada di sette tagli che gli trapassa l'anima, però sono felice perché la felicità è compatibile col dolore, nel senso che mi sono donata e allora Dio mi ha riempito di gioia, no? E la stessa cosa noi la possiamo, e ancora più grandemente, più, in modo più evidente, più forte, la possiamo guardare se contempliamo Gesù e la sua vita. Lui a un certo punto dice: ma che devo dire, Padre, salvami da quest'ora, quando stava per arrivare il momento della croce, no? Ma per questo sono venuto. E addirittura lui desiderava quasi andare verso questo battesimo, questa conclusione della sua vita, che sapeva avrebbe potuto donare la vita in abbondanza a tutti noi, no? E renderci figli di Dio in lui. E poi donarci la sua vita divina, no? Se noi contempliamo l'Eucaristia, se noi contempliamo questo mistero grande che è Gesù nascosto nel pane, che è il pane eucaristico, il pane consacrato, il pane che deriva dal suo donarsi ancora una volta per noi, e poi è pensato proprio da lui per essere il nostro cibo, no? Per donarsi concretamente e proprio a ciascuno di noi del tutto, del tutto. Se la Madonna fa questo, però in una dimensione spirituale che noi percepiamo dai fatti che avvengono nella nostra esistenza, Gesù lo fa in un modo, direi quasi potremmo dire, fisico, no? Quasi fisico, cioè effettivamente lui dice: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. E in effetti, e addirittura quando faceva, San Giovanni lo racconta in un lungo capitolo del suo Vangelo, anche con la discussione, perché non capivano cosa voleva dire, resistevano a questa verità che li sconvolgeva, e lui svela quello che sarà l'Eucaristia, no? Quindi quello che sarà il pane della vita. E Gesù dice frasi ancora più forti per certi aspetti, no? E che questo pane della vita che lui darà, che è la sua carne per la vita del mondo, è per darci la vita eterna. E in verità io vi dico, diceva a quei giudei che non credevano, dicevano: come può costui darci la sua carne da mangiare? Diceva Gesù: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo, il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia a me vivrà per me. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Quindi è come se Gesù ci dicesse tu ci dicessi, Gesù, che questa tua donazione è così grande, così totale, così bella, perché è una donazione che ci riempie della sua vita, no? Della sua vita soprannaturale, è come dire una condizione senza la quale noi non riusciamo ad avere in noi la vita soprannaturale, no? E noi possiamo anche di questo fare l'esperienza, cioè fare l'esperienza che ricevere Gesù che si dona totalmente a noi ci aiuta a vivere con più facilità la vita cristiana, con più serenità, con più gioia. E anche vogliamo fare questa esperienza, Gesù, te la chiediamo anche per l'intercessione di Maria, che guardandoti, qui totalmente dedicato a noi, anche nel tabernacolo silenzioso Gesù, come dice quel punto di cammino, è lì che ti aspetta da 20 secoli, aspetta te e si dedica totalmente a te e non ti fa non ti fa fare anticamera e non ti tiene sospeso per un appuntamento. È totalmente tutto per te e per ciascuno di noi. Allora, noi ti chiediamo, Gesù, di fare l'esperienza sia contemplandoti così nell'Eucaristia, sia ricevendoti nella comunione, l'esperienza che anche noi riusciamo un po' di più a donare noi stessi agli altri. Sempre in quel punto 24esimo, e così possiamo avviarci alla conclusione di questa meditazione, della Gaudium et Spes, che tanto piaceva a Giovanni Paolo II, si dicono delle cose molto belle, no? Dio, che ha cura paterna di tutti, ha voluto che gli uomini formassero una sola famiglia e si trattassero tra loro con animo da fratelli. Tutti, infatti, creati a immagine di Dio, che da un solo uomo ha prodotto l'intero genere umano affinché popolasse tutta la terra, sono chiamati allo stesso fine, cioè a Dio. Quindi l'amore di Dio e del prossimo è il primo e più grande comandamento. Dalla Sacra Scrittura noi impariamo che l'amore di Dio non può essere disgiunto dall'amore del prossimo, e tutti gli altri precetti sono compendiati in questa frase: amerai il prossimo tuo come te stesso. La pienezza perciò della legge è l'amore, dice San Paolo ai Romani. E questa cosa si rivela essere di grande importanza per uomini sempre più dipendenti gli uni dagli altri, e per un mondo che va sempre più verso l'unificazione. In nota, a questo punto, c'è una frase di San Luca, che è quella nella quale Gesù dice: chi perderà la sua vita la troverà, chi invece vorrà tenerla per sé, alla fine la perderà. Quindi noi, Gesù, ti chiediamo, e questa è una logica diversa da quella che è umanamente più normale, no? Quindi io, per custodire la mia vita, la tengo un po' per me, se no, se la do altrove, questa si perde. Invece tu ci dai un'idea diversa, no? E ti chiediamo di capirlo un po' di più, molto di più, del tutto, e anche di viverlo, di sperimentarlo, con l'aiuto che ci dà la tua Eucaristia, con l'aiuto che ci dà la tua Madre Santa Maria, nel momento in cui noi la preghiamo e la invochiamo e la guardiamo come modello della nostra esistenza.